Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Con voi Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria, partendo poi dalle borse. Parleremo di Expo, ma parleremo anche di una vicenda abbastanza singolare, che è quella che riguarda Lehman Brothers. Sta emergendo in America che in realtà Lehman Brothers, ve lo ricorderete, insomma, il più grosso crack, quello che segnò l'avvio della crisi finanziaria nel 2008, con le immagini dei dipendenti di Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni. Ebbene, qualcuno l'avrebbe aiutata a fallire, mettiamola così, e magari anche delle banche concorrenti. È una vicenda che è a cavallo tra il giallo e la cronaca finanziaria. Ce ne occuperemo alle 18:10. Parleremo invece di quello che è anche un tema che stiamo seguendo da 2 o 3 giorni, ossia il tentativo dei leader europei, nel caso specifico Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, di arrivare a norme molto rigide contro gli hedge fund, quindi i fondi a maggior carattere speculativo, e anche i prodotti derivati. Quello che ha fatto arrabbiare moltissimo francesi e tedeschi è stato il tentativo, che abbiamo visto anche noi sui mercati 3 settimane fa, scommettere attraverso fondi altamente speculativi e strumenti altamente speculativi sul fatto che la Grecia sarebbe crollata, avrebbe dichiarato il default, sarebbe uscita dall'euro, l'euro non avrebbe risentito. Insomma, scommesse al ribasso, o per meglio dire scommesse di un euro in indebolimento. I tedeschi e i francesi, che complessivamente hanno circa 120 miliardi di euro di prestiti fatti alla Grecia, quindi hanno parte del debito greco, vogliono che questo non capiti più. E oggi la novità è che anche la Gran Bretagna, che all'inizio era sembrata molto scettica, dopo un incontro che si è svolto questa mattina a Londra tra appunto Nicolas Sarkozy e il leader britannico Gordon Brown, anche la Gran Bretagna ha aperto la possibilità di arrivare a norme più stringenti, a regole più ferre, maggiore limitazione nei confronti di questi flussi speculativi, soprattutto quando non sono operati da società basate in Europa. Infine la borsa in questo momento è invariata, non è un venerdì di passione, per fortuna, in alcuni casi invariata Milano, invariata l'America sul Dow Jones, invariata Parigi, guadagna qualcosa Francoforte più 0,20 e Londra più 0,1%. Si sta rafforzando l'euro invece a quota 1,3760. Tra i titoli Eni, parleremo di Eni che oggi ha diffuso i conti meno 2,2%. Anzi, Conti l'ha diffuso ieri, oggi c'è stata la conferenza stampa. Ieri abbiamo raccontato l'accantonamento di 250 milioni, ossia soldi messi da parte per una vicenda che riguarda la Nigeria, un contenzioso in corso in Nigeria. Meno 2,2 il peggior titolo in questo momento, Steam Electronics meno 1,90, Parmalat meno 1,80, Mondadori meno 1,70, come Finmeccanica 1,5% lo perde Buzzi Unicem, e anche Italcementi lo 0,80 lo perde Enel e Exor. Chi guadagna? Banco Popolare più 1,71, Intesa San Paolo più 1,4, Snam Rete Gas più 1,1, Generali più 0,90 come Campari e Ubi Banca e anche Fondiaria. Sai, lo 0,70% lo guadagna Unicredito e anche CIR. Va detto appunto che i rialzi oggi sono molto contenuti, così come anche i ribassi. In assoluto i migliori e peggiori della seduta. Ciccolella è tornata tra noi, la società che opera nel settore dei vivai, più 9,4%, interessante sapere perché. Snia meno 8%, il peggior titolo, Cell Therapeutics meno 6,6%, Icon invece guadagna 7,80%, bene anche il Renault più 5,70%. Ultimo numero, come sempre, quello per i vostri SMS, 349-238-6666, parleremo quindi di Expo, ma anche di alcuni dati che riguardano il mondo del commercio. Oggi infatti è iniziato a Cernobbio il forum della Confcommercio, lo seguono i nostri inviati, e si tratta di capire anche quali siano le tendenze nel mondo del consumo. Comunque, le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio, come sempre noi ci occupiamo di petrolio in apertura, oggi il rialzo è significativo, anche perché a forza di rialzi dell'1-2% qua siamo arrivati a $83 al barile. Mi scrive un ascoltatore: Ciccolella cresce perché è primavera. Mi dica dove abita, perché qua fa un freddo spaziale da settimane intere, per cui evidentemente da qualche altra parte è già primavera. Comunque sicuramente c'è un elemento congiunturale stagionale in un settore come quello della vivaistica. Andiamo avanti però con le altre notizie. L'ENI ieri ha diffuso i dati, ma oggi ha diffuso anche le prospettive di crescita per il 2010-2013. La produzione crescerà oltre il 2,5% annuo. Nel 2010 viene considerato uno scenario di $65 al barile e la produzione resterà invariata rispetto al 2009, quindi la crescita e l'incremento medio anno arriverà poi negli anni successivi. Il dividendo è di, sulla base delle attese attuali che Eni distribuirà, è di un euro nel 2010 per azione. Questo infatti sarà l'utile che verrà distribuito agli azionisti del Cane a sei zampe. E il numero dell'Eni, Paolo Scaroni, ha detto di escludere grandi acquisizioni, ha detto però che resterà attenta l'Eni a possibili acquisizioni mirate se in grado di creare sinergie. Ha escluso anche Scaroni difficoltà con Gazprom nella realizzazione del gasdotto, il cosiddetto South Stream. Sull'ipotesi invece di far convergere questo gasdotto con quello Nabucco, ne parliamo molte volte in trasmissione, Scaroni ha detto: è solo un'idea, bisogna fare qualche riflessione. Dati americani, vendite al dettaglio meglio delle attese a febbraio negli Stati Uniti, più 0,3%, cala invece l'indice di fiducia misurato dall'Università del Michigan, continuano ad arrivare notizie in chiaroscuro dagli Stati Uniti. E poi invece una notizia abbastanza singolare: Londra ha perso il titolo esclusivo di capitale mondiale della finanza. La City per la prima volta, e quindi questo è l'effetto anche della crisi finanziaria, deve condividere il trono con New York. Infatti nell'indice dei centri finanziari globali ha perso 14 punti, è scesa a quota 775, ma non solo per l'effetto della crisi finanziaria, anche perché il timore di nuove regole, di cui parleremo più avanti, e di nuove tasse, di una stretta sulla speculazione finanziaria, ha fatto perdere numerose posizioni a Londra nel punteggio globale. Volete già sapere di JP Morgan? Ne parliamo nella seconda ora del programma. Cosa è successo? Insomma, secondo quanto pubblicano alcuni giornali e le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore della bancarotta di Lehman Brothers, designato dal Dipartimento di Giustizia americano, lui si chiama Anton Valukas, e lui ha scoperto che il crollo di Lehman Brothers è stato più che la conseguenza di un deterioramento della situazione finanziaria dei mercati, è stato aiutato da JP Morgan e Citigroup, che chiedendo più collaterali e rivedendo gli accordi per l'offerta di garanzia hanno contribuito a far precipitare la crisi di liquidità della banca. Sembrerebbe quindi che a contribuire al fallimento di Lehman Brothers ci si siano messi anche JP Morgan e Citigroup, due concorrenti. E questa è una notizia che a noi piace particolarmente, perché svelerebbe un aspetto inedito della più grande crisi di una banca d'affari dal secondo dopoguerra. Parleremo fra un attimo di Bruxelles, del lavoro che si sta facendo per avere norme più rigide sui derivati, su tutti gli strumenti derivati, e quindi ad alto potenziale di rischio, sia quanto a guadagni ma anche quanto a perdite. Addirittura il portavoce di Angela Merkel oggi ha detto di condividere l'opinione del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, secondo cui i paesi dell'Unione Europea che non riescono a rispettare i parametri del patto di stabilità andrebbero espulsi. Faccio notare che anche la Germania ha avuto qualche problema negli anni scorsi a mantenere il deficit sotto controllo. Ultimo dato prima di iniziare con il nostro approfondimento, che sarà dedicato all'Expo e poi al mondo del commercio. Veniamo all'Italia. Come sono andate nel 2009 le entrate fiscali? Allora, il dato definitivo lo ha comunicato il Ministero delle Finanze. Sono stati incassati 14 miliardi in meno nel 2009, soprattutto per via dell'IVA. Chiaramente l'attività produttiva meno forte nel 2009 ha portato a minore incasso da IVA, un meno 3,3%. Per quello che riguarda gennaio, stabili le entrate fiscali pari a 30 miliardi di incassi. Allora, primo tema, dicevo, al 349-238-6666, l'Expo di Milano. Ogni tanto ce ne ricordiamo, dopo le grandi enfasi sull'Expo, ma insomma ci sono, c'è qualche novità e soprattutto qualche assicurazione. Allora, ricorderete, insomma, area espositiva di 1.100.000 metri quadri, vicino alla Fiera di Ropero, visitatori attesi 29 milioni, paesi espositori 120, addirittura si stima che l'evento possa portare alla creazione di 70.000 nuovi posti di lavoro. Con un totale di investimenti previsti di circa 12 miliardi di euro, 11 miliardi e mezzo, mancano all'appello 2 miliardi e mezzo e... Oggi qualche garanzia è arrivata sia dal Presidente del Consiglio Berlusconi che dal Sindaco Moratti che dal Commissario Stanca. Sentiamo il Presidente del Consiglio Berlusconi, ha detto insomma il Governo darà pieno sostegno. È un evento importante, il principale evento che porterà l'Italia all'attenzione di tutto il mondo, parteciperanno 130 paesi e che interesserà tutte le nostre aziende perché sarà una vetrina delle eccellenze italiane, di tutti i nostri prodotti del Made in Italy e che interesserà soprattutto la filiera enogastronomica e agroalimentare, perché il tema di questo Expo è esattamente nutrire il pianeta, energie per la vita. Ho garantito al commissario, signora Letizia Moratti, al sindaco di Milano e al dottor Lucio Stanca il pieno supporto del governo. Abbiamo trovato naturalmente i fondi necessari che saranno praticamente pari a ciò che entrerà nelle casse dell'erario a seguito del... ci sarà un'equivalenza tra gli investimenti che anticiperemo come Stato, come Paese e ciò che il nostro erario incasserà a seguito di tutto ciò che comporterà, del movimento di presenze e di affari che verranno messe in campo e realizzate attraverso questa straordinaria manifestazione internazionale. Quindi la notizia di carattere economico più rilevante di della dichiarazione che avete appena sentito da parte del Presidente del Consiglio è che le spese dello Stato saranno pari alle entrate, cioè si punta a un Expo a somma zero nella differenza tra entrate e uscite. Il sindaco di Milano Moratti ha detto che è un evento per il paese, non solo per Milano. Noi oggi è stata una giornata molto importante perché è stata la prima giornata che ha visto la riunione del comitato di coordinamento previsto dal DPCM che ha istituito la governance dell'evento, quindi dalla figura del commissario a quella della società e del suo amministratore delegato al appunto comitato di coordinamento che deve garantire sinergie tra i diversi livelli istituzionali e il raccordo tra i diversi livelli e tra le diverse iniziative di partecipazione all'evento. Io vorrei solo sottolineare come Milano ha sempre visto Expo ed è sempre stata consapevole di gestire un evento non a differenza delle Olimpiadi che sono più localizzate nelle città, un evento per l'intero paese. Sentiamo questa responsabilità, per questo motivo abbiamo già firmato accordi con oltre 40 città perché siano inserite nella promozione turistica di Expo. Lavoreremo con il territorio, quindi lavoreremo con le città, lavoreremo con le province, lavoreremo con le regioni perché Expo diventi davvero una vetrina del Made in Italy. Sono ancora quindi dichiarazioni, insieme di intenti, che assolutamente condivisibili. Adesso arriveremo alla parte un po' più critica, un po' di pazienza anche agli ascoltatori, perché non ci basta sapere che l'Expo sarà una vetrina, vorremmo sapere anche lo stato d'avanzamento dei lavori. Però, per correttezza, anche l'amministratore delegato di Expo 2015, Lucio Stanca, sempre nel corso della conferenza stampa di oggi a Palazzo Chigi. È un appuntamento forse tra i più importanti che il nostro paese ha sul panorama internazionale. Stiamo costruendo una grande vetrina, perché questo in definitiva è l'Expo, e promuovere il sistema paese con tutte le proprie eccellenze, partendo proprio dal tema della nutrizione, dell'agroalimentare e del gastronomico. Quindi progetto di grande innovazione, di grande modernità. C'è bisogno del sostegno del governo, oggi ci è stato chiaramente manifestato, quindi non ci resta che continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi mesi. Così appunto Lucio Stanca. Insomma, è importante anche che vi sia un impegno in prima persona del Presidente del Consiglio. Quando dicevo, insomma, le dichiarazioni vanno bene, ma è importante anche iniziare con i lavori. Insomma, qui qualcuno se lo ricorda, il 31 marzo del 2008 noi c'eravamo ed eravamo anche in diretta. Milano ha vinto, a Milano va l'Expo 2015, a Milano si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. Allora, Salvatore Carubba del Sole 24 Ore, infatti era il 31 marzo del 2008, insomma, tu hai fatto anche l'assessore alla cultura al Comune di Milano, non sei solo il direttore strategico editoriale del gruppo Sole 24 Ore, ma insomma conosci bene il motivo per cui sei qui, conosci bene l'Expo e le dinamiche anche della città. 31 marzo 2008, dicevo, sono passati, ormai non vorrei fare sempre il conto della serva, ma siamo quasi al 31 marzo del 2010, ci ritroviamo a fare una puntata che facemmo un anno fa. Ora mi si passi la battuta, quasi la potevamo rimandare alla registrazione di un anno fa, fermo restando che ci sono delle novità, stavo scherzando, importante quello che ha detto Berlusconi, che le spese sono pari alle entrate, ma insomma quando è che si passerà alla fase operativa? Beh, le cose che ha detto Berlusconi sono certamente importanti, ma io ho due piccole riserve. La prima è che mi sentirei più tranquillo se a fianco del Presidente del Consiglio ci fosse stato il Ministro dell'Economia, perché sappiamo che poi la borsa la scuccia il Ministro Tremonti, che su questa vicenda dell'Expo è sempre stato un pochino più sfuggente di quanto non sia stato il Presidente del Consiglio. Il secondo elemento di preoccupazione è proprio sull'equivalenza tra entrate e uscite. In realtà sappiamo che non tutti le ultime edizioni degli Expo sono andate in questo modo e che le entrate sono state largamente inferiori alle uscite. Lo stesso Stanca pochi giorni fa proprio ha detto, rispetto al numero che tu ricordavi di 29 milioni di attesi visitatori, che l'Expo sarebbe un flop se non si raggiungesse il numero di 20 milioni di visitatori, quindi si comincia un pochino a essere un pochino più prudenti. Ecco, queste naturalmente sono non delle critiche ma delle riserve, semplicemente per dire che quello che finora è mancato e che probabilmente ha costretto a ripetere questa puntata da un anno all'altro è il fatto che questa unità di intenti veramente forte tra tutte le istituzioni a tutti i livelli fino adesso non è stata del tutto coronata da successo. Ecco, ma perché? Cioè, senza entrare, non voglio fare nessuna polemica, però adesso divento anche più serio. Un anno fa facemmo una puntata dicendo: signori, abbiamo perso un anno, c'è stato un accordo. Devo dire, lo ricordo con molto piacere, che la vittoria italiana all'Expo contro Smirne, che era l'ultima candidata rimasta, fu possibile grazie a un accordo veramente bipartisan tra la Regione Lombardia, che è di centrodestra, era di centrodestra, il Comune di Milano, che è di centrodestra, e l'allora governo Prodi. Cioè, non vi furono, diciamo, trabocchetti vari, per cui il paese si presentò anche unito, e ogni tanto capita pure in Italia. Come mai non si... Cioè, alcuni dicono la colpa è di Lucio Stanca, cioè il commissario non si sta prendendo... Altri dicono, attenzione, che il commissario dell'Expo ha per sua definizione le mani legate finché non c'è un'iniziativa governativa forte. Mancano l'appello 3 miliardi di euro, ma più che i soldi che mancano, io quello che non vedo sono... passami l'elemento un po' superficiale, sono i cantieri. Cioè io non vedo gli appalti, i progetti, le date con l'avvio delle opere, le date con la conclusione delle opere. Cioè, di solito se si vuole fare un Expo e agganciare a questo Expo tutta, diciamo, l'asse pedemontana, ma non c'è solo Milano, ha ragione la Moratti, c'è Venezia, c'è il Veneto che vuole fare gemellaggi con l'Expo, c'è l'idea che il turista viene all'Expo ma va anche a vedersi Firenze Venezia, la Toscana, cioè diventa un volano per tante cose. C'è Malpensa che con l'Expo potrebbe respirare, non è solo l'Expo di Milano. Perché non partono questi cantieri? Beh, innanzitutto nel frattempo c'è stata la guerra, non dimentichiamolo, perché la crisi che c'è stata ha sconvolto in maniera drammatica i bilanci pubblici, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, e credo che questa sia la ragione principale, cioè il fatto che le disponibilità finanziarie sono straordinariamente meno generose di quanto non potessero essere 2 anni e mezzo fa, quindi probabilmente molte attese, già gli investimenti sono stati ridimensionati, come sappiamo, e questo è un elemento che non si può dimenticare e trascurare. Il secondo elemento, perché non ci sono i cantieri? Io non so se i cantieri avrebbero già dovuto essere aperti. Quello che a me stupisce è perché non ci sono cantieri, diciamo, anche come progetto ci mancherebbe. Esatto, a me stupisce di più perché non ci siano le indicazioni di quello che succederà. La metto in termini letterari. È uscito recentemente un libro di cui parlo domenica prossima nella mia trasmissione di libri, di Gianni Biondillo, scritto assieme a Michele Monina, che si intitola Tangenziali. Questi due scrittori hanno fatto un giro a piedi delle tangenziali di Milano e sono arrivati fino al terreno dell'Expo. Lì confessano di non aver capito che cosa succederà. Quindi anche andandoci a piedi, aver fatto una fatica fino ad arrivare lì e non capire che cosa succede, non ci saranno delle indicazioni, non c'è nulla, la dice lunga sul fatto che questa oscurità ancora è molto diffusa, e questo secondo me si ripercuote poi anche nel clima che la città vive su questa vicenda. Mettendola poi in termini ancora più seri, questo clima di incertezza influirà sul project financing sul quale il governo fa leva? Cioè sui privati che dovrebbero mettere i soldi loro? Ecco, e i quali sono stati anche loro vittime della guerra finanziaria che c'è stata in questi ultimi anni. Questo credo che sia veramente il tema. Cioè vedere come risponderà il settore privato a questo appello a finanziare, a investire sull'Expo, ripeto, su un progetto che ancora a 5 anni data rimane abbastanza nebuloso. L'ultimo aspetto su cui ti vorrei, Salvatore Caruba, è quello dell'effetto Expo, l'effetto volano, perché alcuni contestano questa cosa. Un altro ascoltatore che ci adora dice: sembri il maestrino della penna rossa se provassi tu a fare qualcosa invece che fare disinformazione. E vabbè, mi metterò io a fare l'Expo, cosa devo fare? Però l'effetto volano, cioè io il timore che io dal punto di vista politico e quindi anche poi economico è che se l'Expo viene percepita come una partita tutta milanese o al massimo lombarda, in cui si giocano, mentre nascondersi dietro un dito, ci sono rapporti di forza, rapporti di potere tra diverse anime del governo lombardo e milanese, la Lega, Forza Italia, non solo, in cui viene vista una partita tra la Moratti e Formigoni, con Stanca che non si capisce, cioè lo riduciamo a un evento assolutamente regionale, mentre l'idea, io ho fatto l'esempio della volontà di collegare l'Expo addirittura con il Veneto, ma ci sono moltissime province del sud che vorrebbero entrare nel pacchetto Expo, che poi potrebbe essere un pacchetto di volano, hai la regione che investe, porti i turisti giù, insomma potrebbe essere una grandissima opportunità. Ecco, c'è questo rischio che venga poi percepito non solo per questo punto dai lombardi come una cosa di cui non si capisce l'esito finale, ma dal paese intero, superata l'emozione iniziale, come una diatriba puramente regionale? Il rischio c'è, bisogna evitarlo. Io credo che sia possibile evitarlo. Innanzitutto non dimentichiamo che il fatto che faccia da volano l'Expo, come dovrebbe poter fare in termini di infrastrutturazione del territorio lombardo, non soltanto milanese, diventa già quello un volano per tutta l'economia italiana, posto che in Lombardia si produce una fetta del PIL molto significativa. Ma la stessa tematica alla quale oggi si è richiamato il Presidente del Consiglio ancora una volta, cioè la filiera dell'agroalimentare, eccetera, ammesso che questa tematica riesca a portare 20 milioni di persone, cosa sulla quale si può discutere, ammesso questo, sicuramente è una filiera molto, molto trasversale, nella quale tutto il paese si può ritrovare e sulla quale si può facilmente organizzare un collegamento. Per cui io credo che le potenzialità ci siano, bisogna vedere naturalmente come verranno giocate e con che spirito di collaborazione con tutto il resto del paese. Sì, vedo anche delle battute che dicono: vabbè, tanto quando mancheranno 2 anni nulla sarà pronto, affideranno tutto quanto alla Protezione Civile. No, non che può sarà stata commissariata. No, vabbè. Ma insomma, no, non potrà funzionare così. L'ultimo aspetto: molti di voi fanno un paragone con Shanghai. Adesso noi parleremo anche quest'estate dell'Expo di Shanghai, che aprirà a maggio e durerà fino a ottobre. Avremo anche persone che vanno a seguire, le aziende italiane lì presenti. L'Italia ha il padiglione più importante all'Expo di Shanghai dopo quello cinese, perché è il paese che ospita l'Expo dopo. una vetrina importantissima. Non farei molti altri paragoni, nel senso che lì hanno spostato un quartiere di 350.000 persone per fare spazio all'Expo. Da noi lavoriamo su altri numeri. La Cina con l'Expo vede la coronazione del suo ruolo mondiale dopo le Olimpiadi, insomma, sono altri esempi. Un'ultima domanda, Salvatore Caruba, sul progetto, diciamo, editoriale, chiamiamolo così, dell'Expo, quindi i contenuti che ci devono essere dentro. Almeno su quello si è capito che alimentazione e cibo green resteranno, green economy resteranno il cuore, perché abbiamo, sulla parte infrastrutturale ho visto saltare i raggi verdi, saltare le vie d'acqua, alcune ci saranno, poi tornano in discussione il progetto, ma sul cuore, sul tema che dovrebbe spingere milioni di europei a venire a Milano per l'Expo? Sì, credo che il tema rimanga quello e da quello non si possa prescindere. Credo anche che sia un tema che si presta a essere declinato, come si dice, in tante versioni che possono dare luogo ad appuntamenti importanti da un punto di vista culturale, da un punto di vista di incontri, di confronti con tutto il mondo, abbastanza stimolante e interessante. Per cui non pensiamo che il tema dell'alimentare significhi fare la parata dei prodotti alimentari. E appunto il tema della green economy, il tema dell'ambiente sono dei temi decisivi da affrontare sempre di più, ce ne accorgiamo, in termini molto nuovi e innovativi rispetto anche a parole d'ordine che appaiono abbastanza appassite, e quindi è l'opportunità questa anche per il nostro paese, tornando alla domanda di prima, di svolgere un ruolo attivo da questo punto di vista. E quindi non solo, non semplicemente, diciamo, la parte che a noi interessa di più, devo dire, infrastrutturale, perché poi qui ci abitiamo, certo, e siamo italiani e servono le dimensioni infrastrutturali, ma insomma anche la parte propositiva per quello che riguarda, insomma, i temi e le sfide del futuro. Grazie a Salvatore Caruba e spero fra un anno di rifare la puntata, magari commentando anche qualche progetto, se non proprio cantiere, qualche progetto oltre che qualche cantiere avviato. Bene. Vabbè, questo è il nostro augurio di sentire di nuovo altre gioie, non siamo assolutamente pessimisti sull'Expo, ma lo teniamo d'occhio, giusto per evitare che poi ci siano solo grandi spot, grandi dichiarazioni, il meteo, la pubblicità, poi la borsa, il mondo del commercio e il tentativo di bloccare la speculazione finanziaria, l'asse franco-tedesco si apre anche alla Gran Bretagna, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso l'aggiornamento di borsa, ultima seduta della settimana, poi il mondo del commercio e gli altri temi, quindi lotta alla speculazione finanziaria da un lato e la vicenda del fallimento Lehman che si tinge di giallo dall'altro. Allora, la borsa più 0,1% Milano, più 0,3% Francoforte che è la migliore, invariata Parigi, e Londra più 0,18%, l'America sta guadagnando pochissimo, lo 0,1%. I titoli, il peggiore Eni, nonostante la conferma del dividendo a un euro per azione, e l'accantonamento è stato annunciato ieri da 250 milioni per una vicenda legale, una controversia in Nigeria. Titolo perde l'1,35%, Parmalat meno 1,75%, Mondadori meno 1,70% come Stima Electronics, Finmeccanica meno 1,6% come Italcementi, l'1,2% lo perde Buzzi Unicem Bulgari meno 0,6% come Enel. Chi guadagna? Banco Popolare più 1,70%, Intesa più 1,40% come Ubibanca, Fondiaria più 1,2% come Snam, Rete Gas e Generali, l'1% lo guadagnano le CIR e Unicredito, Tenaris più 0,80% come Geox. Allora, Radio Corriere sulle 24 ore, come sempre per il commento, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Eni. Beh, Eni ha pagato certamente la revisione al ribasso dell'utile netto per il 2009 comunicata ieri, ma invece nella giornata di oggi ha sofferto anche della presentazione del piano strategico del 2013 che contiene un taglio alle stime sulla crescita media annua della produzione di idrocarburi a più 2,5 annuo, mentre un anno fa nel piano strategico 2009-2012 era stata indicata una crescita del 3,5 annuo. Quindi queste indicazioni sulla crescita unito al taglio rispetto alla redditività, all'utile netto comunicato ieri, hanno fatto soffrire il titolo oggi in borsa, che è stato, come tu ricordavi, il peggiore del FTSE MIB. Un motivo per cui l'ENI, ricordavamo la notizia anche in apertura, che le previsioni di crescita della produzione sono scese al 2,5%, come l'ha giustificata il numero uno Paolo Scaroni? Pronto? Sì, pronto. Dicevo, il motivo per cui, com'è che ENI ha giustificato un aumento della produzione che appunto è più basso delle stime precedenti, Andrea? Fondamentalmente Eni, diciamo così, si è basato un po' su quelle che sono le indicazioni del mercato, e certamente non è basata su un fatto che non ci saranno prospettive di crescita. Certamente forse un anno fa, prima della crisi, le indicazioni di crescita dell'economia erano più positive. Attualmente si inizia a intravedere un segnale di ripresa, ma certamente più lento di quello che ci si aspettava. Beh, sì, va anche detto, non per difendere Eni, ma va anche detto che la domanda di idrocarburi è calata moltissimo nel 2009 e come sempre legata, come tu ricordavi Andrea, al ciclo economico. Ancora sui titoli, invece, bene Banca Popolare, bene Intesa San Paolo, più 1,4%, anche UbiBanca più 1,4%. Unicredito resta un po' più al palo, più 0,80. Comunque, bene i bancari oggi. Sì, una buona giornata dei bancari, certamente i bancari italiani, in particolare Intesa, Unicredit, sono considerati un po' nelle ultime settimane dei titoli piuttosto solidi, che mostrano una certa solidità nel comparto europeo bancario e che sono soprattutto sottovalutati rispetto alla media del mercato, per cui oltre a Intesa, che oggi ha beneficiato anche delle indicazioni della controllata Fideuram che ha pubblicato i conti, ricordiamo Fideuram destinata alla quotazione forse già nel primo semestre, è andata molto bene anche il Banco Popolare, un titolo diciamo su cui magari ci sono più incertezze, ma su cui qualcuno inizia a scommettere per una ripresa anche in borsa di un titolo piuttosto sottovalutato per le forti vicende negative che hanno coinvolto l'Istituto Veronese e prima di tutto Italise, come ricordiamo. Ancora, oltre al settore bancario, ad Eni, oggi protagonisti, ripeto, sempre con variazioni molto modeste rispetto a altre sedute, i titoli del cemento, Italcementi meno 1,6 e anche in generale il settore costruzione non è andato benissimo, mentre debole Mondadori, anche qui volete sapere perché? Perché dalla prossima settimana entrerà Azimut al posto da Mondadori nell'S&P MIB. Abbiamo spiegato già ieri che quando un titolo esce dal listino principale tende a essere un po' penalizzato perché in sostanza meno visibile ai fondi di investimento, soprattutto quelli esteri. Oggi Banca Fideuram, gruppo Intesa San Paolo, ha dato i dati, ha chiuso il 2009 con un utile di gruppo pressoché stabile a 178 milioni di euro, raccolta netta di 2 miliardi e 8, dividendo di 10 centesimi di euro, quindi questo è l'utile che verrà staccato per l'azione, un più 6%. I migliori e peggiori, oh, Ciccolella, perché più 9,40%? Ciccolella è una città che non produce fiori, rappresenta i vivai. Perché più 9,40? Beh, certamente è un titolo su cui i movimenti, nonostante la ristretta, i ristretti scambi, portano subito a movimenti piuttosto forti notizie di mercato, cioè titolo. No, non l'arrivo della primavera, il fatto che sia scesa da 0,80 centesimi, cioè, non ci sono, ma no, era solo per sapere, perché ci incuriosisce sempre come titolo. Icon più 7,80. Bolzoni più 6,60, Renault più 5,70%, Snia meno 8%. Novità su Snia? No, non ci sono novità, però è un titolo che, molto, vista la situazione, eh sì, è è fortemente, fortemente penalizzato appunto per la situazione appunto dell'amministrazione straordinaria. Eh sì, perché siamo arrivati a 10 centesimi di euro. Montefibre sul risparmio non convertibile meno 7,5, Cell Therapeutics meno 6,60. Anche qui Cell Therapeutics sta conoscendo intere sedute di passione. Io non ho letto nulla oggi, però chiedo conferma a te, Andrea. Sì, sicuramente Cell Therapeutics da quando ha avuto problemi sull'autorizzazione dei brevetti nelle scorse settimane è stata ancora fortemente penalizzata, era un titolo su cui appunto si scommetteva e su cui il cui destino è spesso legato alle autorizzazioni dei brevetti farmaceutici. Quello delle le notizie delle scorse settimane hanno fortemente aumentato la volatilità sul titolo e anche diciamo il pessimismo sul titolo stesso. CHL meno 5,50, Cadit meno 5,80%, Arena meno 4,60%. Comunque giornata per fortuna piatta alla fine, con l'America che mantiene l'andamento assolutamente neutro, più 0,06%. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Grazie, buona serata. Volete sapere quando uscirà Mondadori? Uscirà la prossima settimana dall'S&P MIB, entrerà appunto Azimut, che è una società che si occupa di risparmio gestito. Allora, adesso le informazioni sul traffico, poi parliamo di consumi e anche di un botta e risposta al ministro Brunetta con il segretario CGIL Epifani, 349-238-6666 per gli sms. ...17:50, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo del forum di Confcommercio che si è aperto oggi a Cernobbio per capire i protagonisti del mercato, gli scenari degli anni 2000, immagino 2010, 2011, non tutto il millennio, sarebbe un po' ambizioso, ma soprattutto, e qui la smettiamo di sorridere, sono usciti dei dati della Confcommercio su come andranno i consumi nei prossimi anni, quando torneremo ai livelli pre-crollo, sia come consumi che come PIL pro capite. Allora, ripresa lenta, questo l'avevamo capito anche noi, che lenti siamo nel capire, ma non così lenti. E allora, fino alla metà del 2011 la ripresa sarà lenta, quest'anno il PIL non andrà oltre lo 0,8% e già stiamo riducendo le stime, si sperava a novembre-dicembre che quest'anno facesse un più 1,1, più 1,2 e invece poi nel 2011 1%, lenta anch'essa. E per quello che riguarda, cioè in questo modo, con questi livelli, si tornerà ai livelli di consumi prima della crisi solo nel 2015. E per quello che riguarda il PIL pro capite, ossia quanto PIL produce ognuno di noi, il PIL pro capite, quindi a un livello pre-crisi, arriveremo solo nel 2019. Ma noi saremo qui a raccontarvelo, mi auguro. Va bene, va bene. Confcommercio segnala anche che il Sud paga tasse extra per un 8% come conseguenza della contraffazione, dell'abusivismo e soprattutto della criminalità organizzata. Allora, hanno partecipato al forum oggi vari esponenti, tra cui il ministro Brunetta. Avremo un'intervista invece con il presidente della Confcommercio Sangalli lunedì, al termine dei due giorni di lavoro. Ma dicevo, il ministro Brunetta ha detto: attenzione, la crisi non ha intaccato il potere delle famiglie, questo così a noi non risulta, ma insomma, e ha detto anche, ha invitato gli italiani a tornare a consumare. Le famiglie in questa crisi, almeno quelle non toccate dalla disoccupazione o dalla cassa integrazione, non hanno perso potere d'acquisto. Quindi semmai è aumentata la propensione al risparmio perché le famiglie hanno paura. Il vero problema è come vincere la paura. Come vincere la paura per consumi durevoli, come vincere la paura per investimenti che possono fare le famiglie e possono fare le imprese. I segnali positivi di ripresa sono forse il miglior antidoto per migliorare la fiducia e quindi per far consumare le famiglie, per trasformare i risparmi, la maggior propensione al risparmio, far diventare consumi. Ecco, questa è la fase difficile che stiamo vivendo, cioè come trasformare i maggiori risparmi, perché paradossalmente si sono formati nelle famiglie maggiori risparmi, come trasformarli in consumi. Questa è la fase delicata e i segnali che vengono dall'economia internazionale devono proprio portare a questo. Basti pensare che siamo ancora ai minimi storici per quanto riguarda i tassi di interesse e che quindi ci può essere una buona ripresa anche del mercato immobiliare. Fare un mutuo adesso, un mutuo variabile, costa meno del 2% con tassi variabili e costa attorno al 4% con tassi fissi, vale a dire valori di grande interesse per quelle famiglie che vogliono guardare nuovamente al futuro con positività. Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 su questo tema. È innegabile, lo abbiamo spiegato più volte, che nei lavoratori dipendenti, che pure erano stati massacrati nel potere d'acquisto dall'ingresso dell'euro, ma ripeto, in chi ha la busta paga a fine mese e ha mantenuto il posto di lavoro, questa crisi ha portato dei vantaggi. I tassi, come ricordava Brunetto, sono bassissimi, ai minimi storici. L'inflazione anche in Italia è ai minimi storici, all'1,2-1,3%, per cui paradossalmente tu non stai peggio, stai un po' meglio come busta paga. Vedo il tecnico di regia che mi guarda come se stessi per fregarlo. Non voglio fregare nessuno, ma insomma, è innegabile questo. Altra cosa però è parlare complessivamente dei consumi del paese, e lì abbiamo la disoccupazione che è salita all'8,2%, i cassi integrati, insomma non si può dire. Se si fa ragionamento sui lavoratori dipendenti che non hanno perso posti di lavoro è ineccepibile. Sui consumi, beh, la leva psicologica, fanno bene i governi a usarla. Dopodiché cosa deve dire un governo? Cercate di essere più ottimisti. Un governo non è che possa dire molto altro. Dopodiché, per essere ottimisti, occorre vedere anche uno scenario in miglioramento. Invece, molto duro il ministro Brunetta contro lo sciopero della CGIL: è un flop ed Epifani è un tafazzista. Epifani è un disco rotto, parafrasando qualcuno. In un momento come questo, molto delicato, la CGIL non ha altro da fare che fare uno sciopero generale che si è trasformato in un flop. Io vi dico i miei numeri, cioè della pubblica amministrazione: siamo sotto il 10% di partecipazione da parte dei dipendenti pubblici allo sciopero generale della CGIL, meno della metà, quasi un terzo degli stessi iscritti alla CGIL nel pubblico impiego. Quindi vuol dire che solo un iscritto alla CGIL su tre nel pubblico impiego ha scioperato. E questo la dice lunga. Questo è il quinto sciopero generale nel pubblico impiego. E il quinto, forse il sesto, sciopero generale della CGIL in questo periodo di difficoltà. Che la CGIL risponda ai periodi di difficoltà con 5-4 scioperi generali mi sembra di una banalità infinita, ma soprattutto di un masochismo, di un tafazzismo assoluto. Epifani, tafazzista. La risposta del segretario della CGIL, Guglielmo Epifani. La più grave crisi del dopoguerra non può essere affrontata come sta facendo il governo, cioè galleggiando sulla crisi. C'è bisogno di rilanciare gli investimenti, di dare un progetto, di non lasciare le persone sole, di sostenere i redditi. I lavoratori e i pensionati continuano a pagare più tasse, un disoccupato ha l'indennità di disoccupazione solo per 8 mesi. Non si può affrontare il disagio sociale, le persone che vengono messe fuori con questi strumenti. Allora, vedo molte risposte anche a Brunetta. Allora facciamo una cosa: c'è il GR, poi ne leggerò alcune e vi dirò cosa ne penso. Le dichiarazioni di Brunetta, molti chiedono ma dov'è che sono questi mutui al 4%, al 2%. Vabbè, la risposta dopo il GR, poi affrontiamo anche il tentativo dei paesi europei di fronteggiare le speculazioni finanziarie. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, come promesso, adesso ci occupiamo del tentativo europeo franco-tedesco di limitare la speculazione finanziaria da un lato, E dall'altro poi di quello che sta emergendo in America sull'inchiesta su chi contribuì a far fallire Lehman Brothers. Due banche concorrenti ci misero lo zampino. Due risposte velocissime. Molti ascoltatori hanno criticato le dichiarazioni del ministro Brunetta dicendo non è vero che il ragionamento è solo su chi ha non ha avuto chiaramente un problema di lavoro come cassa integrazione o perdita del posto di lavoro e lavora come lavoratore dipendente. È vero che l'inflazione è ai minimi, che i tassi di interesse sono ai minimi. Molti fanno notare che però le bollette, ci sono stati rincari. Sì, anche il prezzo della benzina non è sicuramente ai minimi, ma non è alto come due anni fa, quando il petrolio viaggiava a $140, fermo restando che tutto si può dire, ma quando poi la Confcommercio, la Confindustria e tutti i centri studi ti dicono che non si tornerà ai livelli del potere d'acquisto del 2007 prima del 2015, il dato sull'ampiezza, la profondità di questa crisi e la lentezza del recupero, c'è tutto. Cambiamo tema invece, occupiamoci del tentativo di bloccare la speculazione finanziaria, tentativo operato dal cancelliere tedesco Angela Merkel, dal presidente francese Nicolas Sarkozy e a cui oggi si è aggiunta anche un'apertura britannica. Che cosa è successo? A Bruxelles continuano a lavorare sulla linea Sarko-Merkel, come ormai si chiama, cioè con l'idea di procedere velocemente ad un'inchiesta sull'uso dei credit default swaps con l'obiettivo di un giro di vite su tutti i prodotti finanziari derivati, cioè che derivano da qualcuno. I derivati sono alla base, lo diciamo sempre, della crisi finanziaria del 2007, amplificano infatti le perdite, ma amplificano i guadagni, ma anche e soprattutto le perdite. Sotto investigazione ci sono soprattutto i CDS, come si chiamano i credit default swaps, e la vicenda che portò 3 settimane fa, secondo alcune ricostruzioni, a un gruppo di banchieri si riunirono alla Town House, una sala privata esclusiva a Park Avenue a New York, quindi sulla 63ª strada di Manhattan, e sembra che in questo incontro, a cui erano presenti nomi come George Soros e altri grandissimi speculatori, John Paulson e altri grandissimi speculatori, Stephen Cohen mondiali, si decise a tavolino di colpire chi, qual era la nuova preda? L'euro. Fare pressioni attraverso strumenti finanziari altamente speculativi per abbattere l'euro nella scommessa che la Grecia non avrebbe retto, sarebbe saltata per aria e l'intera Unione Monetaria Europea ne avrebbe risentito. Una speculazione che ricorda un po' quella che avvenne, sempre artefice Soros, nel 92 contro la lira e la sterlina, e che riuscì, cioè la lira e la sterlina furono espulse allora dal sistema monetario europeo. Sotto inchiesta quindi di nuovo i CDS, e visto che molti di voi ci chiedono spesso ma cosa sono questi credit default swaps, sono delle polizze assicurative che vanno a scommettere su quanto sei a rischio di saltare per aria. Comunque ve lo spiega meglio di me questa scheda. I credit default swap, o più brevemente CDS, sono polizze assicurative con cui un investitore può assicurarsi contro il fallimento di qualsiasi obbligazione, dunque sia titoli pubblici emessi da uno Stato, sia corporate bond emessi da un'impresa. Il loro valore viene espresso in punti base. Più è alto, e dunque più il CDS è costoso, maggiore è la probabilità di fallimento di chi ha emesso l'obbligazione su cui ci si assicura. È facile dunque intuire come il valore di un CDS fotografi immediatamente lo stato di salute dell'economia e dei conti pubblici di uno Stato. Facciamo alcuni esempi. Oggi i CDS più cari al mondo sono quelli sul Venezuela, che valgono 1.437 punti base, a significare che i mercati ritengono relativamente probabile un crack del paese sudamericano. Per contro, costa pochissimo, appena 21 punti, assicurarsi contro un ipotetico fallimento di un paese ritenuto al top dell'affidabilità, come la Germania. Sempre in Europa, il paese attualmente più in difficoltà, ossia la Grecia, costa 181 punti, seguita dall'Irlanda, che ne vale 148, poi Spagna e Italia, i cui CDS valgono in questo momento circa 80 punti. Questo è il funzionamento, insomma, per spiegarla in maniera un po' semplicistica, è un po' come il premio che ognuno di noi paga sulla polizza assicurativa. Se sei uno altamente a rischio di fare incidente, perché hai un passato di incidente o comunque per vari motivi sei uno che guida male, così ritiene l'assicurazione, paghi un premio molto alto. Se invece sei ritenuto un guidatore, un automobilista modello, il premio che paghi è molto basso. I CDS, insomma, in qualche modo lavorano così. La scommessa, dicevo, di un mese fa di questi quattro grandi speculatori mondiali era di portare l'euro a quota 1-1 sul dollaro. Non che vi sia nulla di male nel speculare su una valuta, però i governi europei, dopo quello che si sono dovuti beccare da questa crisi innescata e amplificata dai geni della finanza di Wall Street e della City, sono stufi di dover pagare, poi come leader politici, le conseguenze di guadagni e speculazioni effettuati da altri. Da lì nasce il piano Angela Merkel-Nicolas Sarkozy: bloccare, regolamentare, trovare delle soluzioni che limitino tutto questo. E oggi l'apertura anche è arrivata alla Gran Bretagna, inizialmente molto scettica. Il presidente francese infatti era in visita a Londra, ha incontrato Gordon Brown, e allora siamo in collegamento con Leonardo Maisano, corrispondente sulle 24 ore da Londra. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Che cosa si sono detti? Abbiamo capito bene nel ritenere che c'è stata un'apertura britannica a una normativa, a nuove regole europee? Sì, c'è stato soprattutto, come dire, un atto di fede da parte di Gordon Brown, che si è detto appunto fiducioso sulla possibilità di raggiungere un'intesa nei prossimi giorni, nel volgere di pochi giorni, sulle nuove regole per gli hedge fund. I timori britannici, Leonardo, perché la Gran Bretagna sappiamo che anche culturalmente è il paese europeo più vicino agli Stati Uniti, la City di Londra è, diciamo, il corrispettivo europeo di ciò che è Wall Street come dimensioni, come importanza. Qual è il loro timore? Dunque, nella City di Londra circa l'80% dell'industria degli hedge fund europei è a Londra, e in alcuni settori specifici degli hedge fund Londra è assolutamente leader mondiale. Quindi è evidente che se vengono imposte delle regole più stringenti, c'è il timore che l'industria ne perda. Soprattutto l'aspetto che più preoccupa è quello che limita, come dire, limitare l'azione degli hedge fund stranieri in Europa, che transitano spesso attraverso Londra. E questo è uno dei rischi connessi con la direttiva, secondo il punto di vista britannico, connessi con la direttiva attualmente in discussione a Bruxelles. Per cui questo incontro Sarkozy-Brown è stato appunto, come dire, propedeutico all'Ecofin di martedì, che dovrà, come dire, definire queste nuove regole. C'è stata questa apertura, nel senso che c'è stato queste dichiarazioni di Brown in cui si è detto fiducioso e certo che un'intesa la raggiungeranno. Vuol dire che tutti gli ostacoli sono stati chiariti? Probabilmente non ancora, anzi certamente non ancora, ma c'è per la prima volta la sensazione, come dire, di un'intesa crescente. Eh sì, e qualche risposta, insomma, l'attende l'opinione pubblica, ma la vuole anche la politica europea dopo quello che è successo. Vedremo. Tu ricordavi giustamente, Leonardo, che martedì dall'Ecofin, dal vertice ministri economico-finanziari dell'Europa, dovrà uscire una risposta, perlomeno l'indicazione di quello che sarà poi la linea da seguire nella riforma e nei regolamenti. Grazie per ora al corrispondente sulle 24 ore da Londra, Leonardo Maisano. Nel frattempo qualche novità arriva anche in Italia, ma la fonte è la Consob, che ha varato il regolamento che disciplina tutte le operazioni con eventuali conflitti di interesse in borsa, fusioni, acquisizioni, dismissioni, aumenti di capitale riservati. E, insomma, l'obiettivo è rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi che possono scaturire nelle operazioni in potenziale conflitto di interesse effettuate con parti correlate. Siccome il tema è tecnico, io vi rinvio al sito della Consob, dove c'è tutto, le informazioni sul traffico, e poi andiamo a scoprire il giallo di Lehman Brothers, la banca che il 15 settembre 2008, saltando per aria, era la quarta banca d'affari di Wall Street, fondata nel 1850. Ecco, con il fallimento di Lehman Brothers si aprì ufficialmente la crisi a livello globale. Come dice il ministro Tremonti, l'effetto degli impiegati di Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni dal grattacielo fu devastante. In America hanno scoperto che non fu solo un motivo di mercato. Tra un minuto la risposta. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, volete sapere anche nel frattempo quanto hanno perso i fondi questi grandi speculatori che hanno scommesso sull'euro in discesa libera 1-1 sul dollaro? Non lo sapremo mai. Non è la prima volta che personaggi come George Soros perdono nello scommettere contro l'euro, però insomma è singolare che a distanza di nemmeno un anno e mezzo dallo scoppio della crisi la finanza Wall Street, ma non solo, sia tornata a fare esattamente quello che faceva prima, spesso l'abbiamo detto. Adesso però restiamo in tema per occuparci di quel crack, appunto 15 settembre 2008. Salta per aria la quarta banca d'affari americana che si chiamava Lehman Brothers. Eh sì, in un anno la capitalizzazione era scesa di Lehman Brothers da 40 miliardi, cioè quanto valeva il capitale di Lehman Brothers, a 2 miliardi di dollari. Si viene a creare in questo modo il più grande fallimento della storia. L'esposizione di debitorio, cioè i debiti, o meglio per persone che vantavano crediti con Lehman Brothers, valevano in tutto 613 miliardi di dollari. Si teme anche per il rischio, o che sia un rischio, 150 miliardi di dollari di obbligazioni. E però si dice, poi col senno di poi fu un grave errore comunque di Bush, uno degli ultimi errori di Bush, si disse, beh, insomma, l'America ha scelto il mercato, è giusto che se una banca non regge più è giusto che fallisca. In realtà poi si scoprì che in questo modo si creò un elemento di instabilità in tutto il sistema finanziario e tutti a quel punto si sentirono a rischio fallimento, si arrivò a un passo dal panico. Però insomma era il 15 settembre 2008, era un lunedì, chi se lo ricorda, e praticamente tornando dal weekend i dipendenti di Lehman Brothers trovarono gli uffici con gli scatoloni da portare fuori. Sì, che simpliciter. Quel giorno raccontato, lo raccontiamo anche noi, ma la sentiamolo raccontato dalle televisioni, dalle voci degli operai che uscivano, dei dipendenti, che uscivano dopo pochi minuti dal grattacielo in cui erano entrati regolarmente per lavorare. Lehman became the latest firm to collapse due to its exposure to subprime mortgages. What happens now to Lehman's 26,000 employees? Basically everybody's just finishing up, that's it. We don't know anything yet. Oh, terrible death, it's like a massive earthquake. Lehman Brothers staff arrived at work in London this morning. Very upset, I really don't know, I'm sorry. Good morning, it's Friday. Welcome to Wake Up to Money with Mickey Clark and me, Andy Verity, on 5 Live on Radio Scotland. Coming up in the next half hour, what caused the collapse of the investment bank Lehman Brothers? It's very sad. I mean, for a bank like Lehman, it's been here since 150 years, you know, I mean, it's really sad. Good morning, here's your Money Scope report. Time may be running out for investment bank Lehman Brothers. It's disastrous, but I think people are experienced enough and professional enough to take it on the chin. Allora, le voci, i TG di allora che aprivano tutti con questa notizia, beh, che cosa è successo? Perché vengono accusate due banche, vengono chiamate in causa oggi JP Morgan e Citigroup. Allora, è successo che l'indagine americana che si è svolta per capire insomma, come mai a suo tempo diciamo si arrivò a questo fallimento, l'ha condotta Anton Valukas, che è appunto l'esaminatore per la giustizia americana del crack Lehman Brothers. E la cosa incredibile è questa. Lucas ha detto che praticamente il collasso di Lehman Brothers è stato più che la conseguenza di un clima economico e delle esposizioni nei confronti dei derivati, è stato anche aiutato da JP Morgan e Citigroup, che chiedendo più collaterali e rivedendo gli accordi, quindi più garanzie, rivedendo gli accordi per l'offerta di garanzie, hanno contribuito a far precipitare la crisi di liquidità della banca. E questo, diciamo, lo ha firmato nel rapporto Anton Valukas, 2200 pagine di rapporto depositato presso una corte federale di Manhattan. Non aveva abbastanza liquidità Lehman Brothers, ma ha avuto anche delle sue responsabilità, perché la banca, sostiene sempre Valukas, ha ingannato il pubblico nascondendo transazioni fuori dal bilancio per minimizzare il leverage. Quindi, diciamo, il rischio che si era presa come investimento. Ma i manager di Lehman Brothers invece non avrebbero violato i loro obblighi fiduciari durante l'acquisto di asset tossici, avrebbero dovuto utilizzare maggior cautela, scrive sempre colui che ha fatto questa inchiesta, ma non hanno superato il limite, non sono quindi sconfinati in evidente negligenza. E allora, per riassumere questa vicenda che ha dell'incredibile, la spinta finale, il colpetto per mandarla giù dal burrone, a Lehman Brothers gli hanno date due banche, Citigroup e JP Morgan, obbligandola a rientrare, chiedendo le maggiori garanzie. Due banche che, giusto per far capire com'è il mondo degli squali della finanza, hanno avuto quell'anno lì 112 miliardi di perdite Citigroup e 49 miliardi di perdite JP Morgan, e si sono fatte poi aiutare dai contribuenti americani per 45 miliardi di dollari Citigroup e per 25 miliardi di dollari JP Morgan. E vabbè, ci mancava solo questa, ma insomma è interessante notare e scoprire che poi la storia viene riscritta e assume tutta un'altra piega. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, io vi auguro buon fine settimana, vi lascio la nostra programmazione, noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. A chi vuole sapere come va l'America, l'America è ferma, più 0,05%. Pensate ad altro, che c'è il fine settimana. Radio 24, la passione si sente.